Davvero? No. Nel pozzo del giardino, va, Spoletta! Quell'aria fritta, un messaggio di sconfitta. E sconfitto come? Dove? Parte ruba! Ho la parte vincitore, e l'osca, e la sei in fuga.